Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. L'insicurezza dell'essere umano è parte integrante della sua natura e della sua disperazione. Questo è più che giusto e Wertheimer l'ha detto molto spesso, solo che non è mai riuscito ad attenersi alle sue dichiarazioni, ad ancorarsi a queste sue dichiarazioni. Era presente nella sua mente e nei suoi aforismi una capacità teoretica davvero formidabile, pensai, una filosofia capace veramente di salvare la vita e l'esistenza. Ma questa filosofia Wertheimer non è stato capace di applicarla a se stesso. In teoria padroneggiava ogni disagio della vita, ogni sconforto, ogni disperazione e tutta la logorante malvagità che esiste su questa terra, ma in pratica non è mai stato capace. Così, a dispetto delle sue stesse teorizzazioni, è andato a fondo, è colato a picco fino al suicidio, pensai, fino a Zitzers, il suo pietoso capolinea, pensai. Mentre in teoria ha sempre parlato contro il suicidio e anzi, attribuendo senz'altro il suicidio a me, ha pensato molte volte di andare al mio funerale, in pratica lui si è tolto la vita e io sono andato al suo funerale. Mentre in teoria è diventato uno dei più grandi virtuosi del pianoforte che ci siano al mondo, uno degli artisti più celebri in assoluto, anche se non un artista come Glenn Gould, in pratica col pianoforte non è riuscito a combinare niente, pensai, ed è stato penosissimo il modo in cui ha cercato una via d'uscita nelle sue cosiddette scienze dello spirito. Mentre in teoria era uno capace di padroneggiare la sua esistenza, in pratica non solo non ha padroneggiato la sua esistenza, ma è stato da essa annientato, pensai. Mentre in teoria era uno dei nostri, cioè un mio amico e un amico di Glenn, in pratica non è mai stato nostro amico, pensai, perché per coltivare una vera amicizia, non meno che per diventare un virtuoso, gli mancava assolutamente tutto, come dimostra il suo suicidio, pensai. Ed ecco la conclusione. Lui si è tolto la vita e io no, pensai. E proprio mentre alzavo la borsa per posarla sul bancone, entrò la padrona della locanda. Era sorpresa, disse, di non avermi sentito, al che io pensai: questa mi sta mentendo. Sicuramente, pensai, mi aveva visto addirittura entrare nella locanda ed era stata tutto il tempo a guardarmi. Non era entrata apposta nella sala della locanda, quella donna ripugnante e disgustosa, ma al tempo stesso attraente, che portava una blusa aperta fino alla pancia. La volgarità, questa gente, non si cura neanche di nasconderla, pensai. Anzi, la ostenta, pensai. E gente, mi dissi, che non ha bisogno di tener nascosta la propria volgarità e la propria infamia. La stanza che occupavo solitamente così lei non era riscaldata, ma con ogni probabilità non c'era bisogno di riscaldarla perché spirava un caldo venticello. Lei avrebbe aperto la finestra della stanza per far entrare la tiepida aria primaverile, disse, e intanto armeggiava con la blusa come per volerla abbottonare senza però abbottonarla sul serio. Wertheimer era stato da lei prima di partire per Zitzers. Che Wertheimer si era tolto la vita, lei lo aveva saputo dallo spedizioniere, il quale spedizioniere lo aveva a sua volta saputo da Kohlroser, Franz, uno dei boscaioli che si prendevano cura della proprietà di Wertheimer e su di essa vigilavano. Non era chiaro chi a questo punto sarebbe entrato in possesso di Traich, disse. Certo, non la sorella di Wertheimer, che ormai sarebbe rimasta in Svizzera per sempre. Negli ultimi 10 anni lei l'aveva vista soltanto 2 volte. Non era affatto una donna alla mano, al contrario di suo fratello che era un uomo alla mano. Adoperò perfino il termine affabile E io mi stupii perché non mi era mai capitato di mettere la parola affabile in rapporto con Wertheimer. Wertheimer era buono con tutti, disse, usò proprio la parola buono, dicendo però subito dopo che aveva mollato Treich. Spesso a Treich negli ultimi tempi si erano fermati per giorni, anzi per settimane intere, dei forestieri senza che a Treich comparisse Wertheimer di persona. Quei tipi artisti o musicisti, come lei disse, le chiavi per entrare a Treich le avevano ricevute direttamente da Wertheimer, e nel pronunciare le parole artisti e musicisti il suo tono diventò sprezzante. Quei tipi, così lei, non facevano altro che sfruttare Wertheimer e la sua casa di Treich, bevevano e mangiavano a crepapelle per giorni e settimane a sue spese, non si alzavano dal letto se non a mezzogiorno e passavano il loro tempo a trascinarsi per il paese vestiti in maniera assurda e ridendo sguaiatamente. Insomma, essendo tutti dei depravati, sostenne, le avevano fatto una pessima impressione. Nello stesso Wertheimer, sostenne inoltre, aveva potuto constatare un processo di crescente depravazione e tirò in lungo la parola depravazione, al che io pensai, questo l'ha preso da Wertheimer. Durante la notte, disse, sentiva Wertheimer che suonava il pianoforte, spesso lo aveva sentito suonare fino alle prime ore dell'alba, e alla fine Wertheimer, assonatissimo e con gli abiti sgualciti e strappati, attraversava il paese e si metteva a sedere con lei nella sala della locanda con l'unico intento di farsi una dormita. Negli ultimi mesi non era più andato a Vienna, addirittura non gli importava più niente della posta giacente in città, che infatti aveva smesso di farsi recapitare. Per 4 mesi Wertheimer era rimasto da solo a Treich senza mai lasciare la casa. I boscaioli provvedevano a portargli i viveri, così lei, e intanto alzò da terra la mia borsa con la quale salì nella mia stanza. Aprì subito la finestra e disse che per tutto l'inverno nessuno aveva più pernottato in quella stanza in cui c'era dappertutto una grande sporcizia, disse, e se io non avevo niente in contrario lei sarebbe andata a prendere uno straccio per dare una pulita, almeno avrebbe tolto il lerciume dal davanzale della finestra, disse, ma io le dissi di lasciar stare, del lerciume non mi importava nulla. Lei tirò indietro le coperte del letto e disse che secondo lei era un po' umido, ma l'aria lo avrebbe asciugato. Tutti i miei clienti, ogni volta che arrivano, vogliono la stessa stanza, disse. In passato Wertheimer non aveva permesso a nessuno di pernottare a Treich, mentre ora, di colpo, la sua casa si era riempita di gente, disse la padrona della locanda. Per 30 anni all'infuori di Wertheimer stesso nessuno aveva mai passato la notte a Treich, e invece nelle ultime settimane prima della sua morte dozzine di persone provenienti dalla metropoli, così lei, si erano trattenute a Treich. A Treich avevano pernottato e così lei avevano messo tutta la casa sottosopra. Gli artisti, disse, sono persone singolari. E anche la parola singolare non era sua, le veniva in realtà da Wertheimer, il quale ha sempre avuto, come io pensai, una predilezione per la parola singolare. Le persone come Wertheimer, ma anche come me, sopportano molto a lungo la totale segregazione, pensai, ma poi devono avere compagnia. Per 20 anni Wertheimer ha sopportato di star solo e senza compagnia, ma poi ha riempito la sua casa con gente di ogni risma e si è tolto la vita, pensai. Come la mia casa di Dässelbrunn, Treich si addice alla solitudine, è fatta apposta per una mente come la mia, come quella di Wertheimer, per una mente da artista, una cosiddetta mente da intellettuale. Ma quando una casa simile la strapazziamo oltre un certo limite ben preciso, allora essa ci toglie la vita, diventa assolutamente micidiale. All'inizio una casa come quella la organizziamo in vista dei nostri scopi artistici e intellettuali, ma quando l'abbiamo organizzata in quel modo essa ci uccide, pensai. E intanto la padrona della locanda toglieva la polvere dallo sportello dell'armadio con le dita nude e lo faceva senza il minimo pudore, anzi si divertiva all'idea che io la guardassi e che, per così dire, non le togliessi gli occhi di dosso. Di colpo cessò di essermi incomprensibile il fatto che Wertheimer andasse a letto con lei. Le dissi che con ogni probabilità sarei rimasto soltanto una notte. Ad un tratto avevo sentito il bisogno di tornare ancora una volta a Traich e dunque di pernottare nella sua locanda. E alla mia domanda se per caso rammentasse il nome di Glenn Gould, certo, rispose lei, è famoso in tutto il mondo. Anche lui, come Wertheimer, aveva superato i 50 anni, dissi io. Era un virtuoso del pianoforte, il più bravo del mondo, e una volta, 28 anni addietro, era stato a Traich, dissi, ma lei probabilmente non poteva rammentarlo, al che la padrona della locanda subito mi smentì dicendo che ricordava perfettamente quell'americano. Ma questo Glenn Gould, dissi io, non si era tolto la vita. A lui era venuto un colpo ed era caduto a terra, morto, accanto al pianoforte. Dissi così, ben sapendo che lo stavo dicendo con un senso di sconforto, ma per questo sconforto provai davanti a lei, la padrona della locanda, meno imbarazzo che davanti a me stesso. Mentre io ancora mi sentivo dire caduto a terra, morto, già la padrona della locanda era davanti alla finestra aperta per constatare che il tanfo della cartiera appestava l'aria, come sempre, disse, quando il tempo era afoso. Wertheimer si è tolto la vita, dissi, ma non questo Glenn Gould che è morto di morte naturale. E pensai di non aver mai detto niente di più conciso. È probabile che Wertheimer si sia tolto la vita proprio perché è morto questo Glenn Gould. Un colpo apoplettico è una gran bella cosa, disse la padrona della locanda. Non c'è chi non si auguri un colpo apoplettico mortale, una fine improvvisa. Ho intenzione di andare subito a Traich, dissi alla padrona della locanda, e le chiesi se sapesse se a Traich c'era qualcuno e a chi fosse ora affidata la custodia della casa. No, non lo sapeva, rispose, ma certo i boscaioli si trovavano a Traich. A suo avviso, dopo la morte di Wertheimer, nulla era cambiato a Traich. La sorella di Wertheimer, che senza dubbio aveva ereditato Traich, in paese non era più comparsa e, come disse lei, non si era visto nessun altro erede legittimo. Mi chiese se volevo cenare nella sua locanda. Io risposi che ancora non sapevo quello che avrei fatto quella sera. È chiaro che verrò qui da lei per mangiare una Essigwurst, pensai, come qui non la trovo da nessuna parte, ma questo non glielo dissi, lo pensai soltanto. I suoi affari andavano avanti come al solito, la locanda era tenuta in piedi dagli operai della cartiera, ma quelli prima di sera non arrivano, disse, e aggiunse che a mezzogiorno di clienti non aveva quasi mai, era sempre stato così, e se anche arriva qualcuno, disse, soltanto gli autisti dei camion di birra e i boscaioli si siedono a tavola davanti a una Speckwurst. Il da fare comunque non le mancava. Che in passato la padrona della locanda era stata sposata con un operaio della cartiera, pensai, con il quale aveva vissuto 3 anni, fino a quando lui, essendo caduto in una di quelle temibili taglierine della cartiera, da questa taglierina era stato stritolato e che lei poi non si era più risposata. «Sono già passati 9 anni dalla morte di mio marito», disse lei ad un tratto, e si mise a sedere sul davanzale della finestra. «A risposarmi non ci penso neppure», disse. «Da soli si sta molto meglio. Eppure all'inizio si darebbe chissà che cosa pur di sposarsi, pur di avere un uomo». E non disse «Poi sono stata contenta che lui se ne sia andato, anche se certamente lo pensava». E disse invece «Quella disgrazia non doveva capitargli. Il signor Wertheimer mi ha molto aiutato i primi tempi dopo il funerale». Nel momento in cui lei non ce la faceva ormai più a sopportare la convivenza con suo marito, pensai mentre la stavo osservando, lui è caduto in quella taglierina e andandosene le ha lasciato una rendita fissa che però non le basta per vivere. Mio marito era un brav'uomo, disse. Lei del resto lo ha conosciuto, mentre io di quell'uomo non rammentavo quasi nulla. Soltanto che sedeva al tavolo della sala da pranzo della locanda indossando sempre la stessa tuta di feltro e lo stesso berretto di feltro e che mangiava avidamente dei grandi pezzi di carne affumicata che sua moglie gli metteva sul piatto. «Mio marito era un brav'uomo», disse lei varie volte ancora e guardò fuori dalla finestra ravviandosi i capelli. «Anche la solitudine ha i suoi vantaggi», disse. «Certamente ero stato al funerale di Wertheimer», disse, «e subito di quel funerale volle sapere ogni cosa che si era svolto a Coira, lo sapeva già, ma ancora non le erano note le circostanze più precise che avevano dato luogo al funerale di Wertheimer, sicché io mi sedetti sul letto e mi misi a raccontare. Come ovvio, non riuscii a fornire alla locandiera che un resoconto frammentario del funerale di Wertheimer. Cominciai col dirle che ero stato a Vienna perché intendevo lasciare la mia casa. Una casa grande, dissi, molto, troppo grande per un uomo solo e assolutamente superflua per uno che abbia deciso di stabilirsi a Madrid, la città più meravigliosa del mondo, dissi. La mia casa però non l'ho venduta, dissi, come del resto non penso affatto di vendere Dässelbrunn, che lei del resto conosceva bene. Ma sì, insistetti. C'era stata anche lei con suo marito molti anni addietro, quella volta che era bruciata la fattoria, dissi. E quando, come al giorno d'oggi, c'è una crisi economica, è una vera sciocchezza, dissi, vendere un immobile. E la parola immobile la usai intenzionalmente più volte nel mio resoconto, aveva la sua importanza. Lo Stato aveva fatto bancarotta, dissi, e a queste mie parole lei scosse il capo. Il governo era corrotto, dissi, e i socialisti che erano al potere ormai da 13 anni avevano approfittato di questo loro potere fino al limite estremo, mandando lo Stato completamente in rovina. Mentre io parlavo, la padrona della locanda faceva con il capo dei segni di assenso e guardava ora me, ora fuori dalla finestra. «Lo avete voluto tutti un governo socialista», dissi. «Ma adesso potete rendervi conto che proprio questo governo socialista ha dilapidato tutto». La parola «dilapidato» l'avevo deliberatamente accentuata più di tutte le altre parole e non mi vergognai affatto di averla usata. Anzi, la ripetei più volte ancora in relazione alla bancarotta dello Stato provocata da questo nostro governo socialista e aggiunsi che il cancelliere era un uomo volgare, scaltro e rapace, che si era servito del socialismo come strumento per soddisfare la sua perversa brama di potere e così aveva fatto tutto il suo gabinetto, dissi, costituito da uomini avidi di potere, infami e senza scrupoli, per i quali lo Stato con cui si identificano è tutto, mentre il popolo che hanno il compito di governare non è assolutamente niente. Io sono parte di questo popolo e lo amo, ma con questo Stato non voglio avere niente a che fare, dissi. Mai in tutta la sua storia il nostro paese era caduto così in basso, dissi. Mai in tutta la sua storia era stato governato da gente più abietta e dunque più insulsa e ottusa. Ma il popolo è sciocco, dissi, il popolo è troppo debole per mutare uno stato di cose come questo e vuole farsi abbindolare proprio da gente rapace e avida di potere come quella che ora ci governa. È probabile che anche con le prossime elezioni nulla muti in questo deplorevole stato di cose, dissi, dal momento che gli austriaci sono gente che si abitua a qualsiasi cosa, anche al pantano nel quale sono ormai immersi da più di un decennio. Che popolo sciagurato, dissi, e soprattutto gli austriaci si fanno ancora abbindolare dalla parola socialismo, anche se non c'è chi non sappia che la parola socialismo ha perso il suo valore. I socialisti non sono più socialisti, dissi. I socialisti di oggi sono i nuovi sfruttatori, gente falsa e bugiarda. Così dissi alla padrona della locanda, la quale però non aveva voglia di stare a sentire queste assurde digressioni, poiché una sola cosa desiderava ardentemente – che io le raccontassi del funerale. Le dissi dunque che mentre mi trovavo a Vienna ero stato colto di sorpresa da un telegramma proveniente da Zitzers. Quel telegramma della signora Dudweiler, dissi, cioè della sorella di Wertheimer, mi aveva raggiunto a Vienna e io lo avevo trovato sulla porta di casa un giorno che ero andato al famoso Palmenhaus. Tuttora non mi era chiaro da chi la signora Dudweiler avesse saputo che io mi trovavo a Vienna, dissi. La quale è diventata una città bruttissima, dissi. Non c'è paragone con la Vienna di una volta. È una tremenda esperienza, dopo essere stati all'estero per anni, ritornare in questa città e comunque in questo paese che sta andando in rovina, dissi. Già mi stupisco che la sorella di Wertheimer mi abbia telegrafato per mettermi al corrente della morte di suo fratello. Dudweiler, dissi. Che nome orribile. È una ricca famiglia svizzera, dissi. Titolare di un complesso chimico, quella in cui è entrata la sorella di Wertheimer sposando quell'uomo. Ma come lei certamente sapeva, dissi alla padrona della locanda, Wertheimer aveva sempre represso sua sorella. Non le aveva mai permesso di farsi avanti da sé. E lei si era sottratta a lui proprio all'ultimo, anzi all'ultimissimo momento. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.